La storia e la memoria di Dino Pesole. Lo scorso 28 gennaio la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è riunita in seduta pubblica a Strasburgo per esaminare una questione molto importante che investe il rapporto tra ricerca storica e politica. Si tratta del processo d'appello sul caso Perinčec, una vicenda che risale al 2007. Nel corso di una serie di manifestazioni pubbliche in Svizzera, il politico nazionalista turco Doğu Perinčec, leader del Partito dei Lavoratori Turchi, pur riconoscendo che tra il 1915 e il 1917 centinaia di migliaia di armeni erano stati deportati e massacrati dall'impero ottomano, aveva negato che questo massacro potesse essere definito un genocidio, cioè che fosse stato intenzionalmente programmato dal governo ottomano. In Svizzera la negazione di un genocidio è reato. Venne quindi aperto un procedimento contro di lui che si concluse con una condanna definitiva a una pena pecuniaria. Perinčec fece ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, accusando la Svizzera di aver violato il suo diritto alla libera espressione, e la Corte gli ha dato ragione nel 2013. Contro questa sentenza ha fatto ricorso la Svizzera e al processo attualmente in corso presso la Grande Chambre sono intervenuti come terze parti i governi turchi e armeno. Del collegio di avvocati che rappresenta l'Armenia ha fatto parte l'avvocato Amal Alamuddin, nota anche per essere la moglie della star di Hollywood, George Clooney. Mr. President, honorable judges, it is an honor to appear before you today on behalf of the government of Armenia. As my colleague has explained, our submissions today focus. Allora, come stiamo ascoltando, questa è la testimonianza di Amal Alamuddin, che è appunto nota per essere la moglie della star di Hollywood George Clooney. E così, nell'anniversario del centenario del genocidio e deportazione degli armeni da parte dell'impero ottomano, si riapre una questione che da decenni divide storici e politici. La Turchia continua, come sappiamo, a negare che si sia trattato di un genocidio. Questione tutt'altro che irrilevante, tra l'altro, per un paese che aspira a entrare nell'Unione Europea. Diamo il benvenuto allo storico Luigi Caiani, con cui già in altre occasioni abbiamo discusso qui a Radio 24. Buonasera. Del cosiddetto negazionismo, che ora esaminiamo con riferimento al genocidio degli armeni. Buonasera e bentornato. Buonasera. Allora, intanto professor Caiani ci aggiorna sugli ultimi risvolti della vicenda dal punto di vista giuridico. Le arringhe non sono state particolarmente innovative. La difesa di Perinčec ha insistito sul fatto che lui non in nessun modo attaccava gli armeni e insisteva semplicemente sul fatto che il governo ottomano di allora non aveva organizzato il genocidio. La rappresentante dell'Armenia ha insistito sul fatto che invece ci sono le prove che si è trattato di un genocidio. Ora, naturalmente le arringhe sono sempre molto sintetiche, bisognerebbe vedere le memorie che sono state presentate dalle varie parti alla Corte e sono attualmente riservate, quindi vedremo quale sarà, non sappiamo bene quando, l'esito di questo, che è un processo che avrà un'enorme importanza sia sul piano giuridico che sul piano politico. Ecco, proprio da questo punto di vista, probabilmente gli ascoltatori si chiederanno qual è l'interesse di questa vicenda che risale a 100 anni fa, cioè perché è importante stabilire che si sia trattato di un genocidio? Non sembra essere una questione, come dire, marginale? Non è intanto marginale sul piano politico dei rapporti fra l'Armenia e la Turchia, perché nel caso che venisse riconosciuta una responsabilità diretta, quindi un intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, questa è la definizione di genocidio che è stata fissata dall'ONU alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in questo caso l'Armenia potrebbe chiedere delle forme di risarcimento alla Turchia. Quindi c'è indubbiamente un problema anche molto concreto. C'è poi un problema più generale, perché investe la questione del negazionismo, che sta diventando sempre più scottante in Europa. Sappiamo che alcuni stati hanno una legislazione che esplicitamente punisce o la negazione di alcuni genocidi particolari, come il caso dello sterminio nazista degli ebrei o il caso appunto degli armeni, o in generale qualunque definizione di genocidio. E questo naturalmente è molto complicato, perché bisogna vedere in questi stati, e fra questi c'è la Svizzera, chi poi decide che un certo evento storico è stato o no un genocidio. Altri stati europei invece, come la Gran Bretagna, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Svezia, la Danimarca, rifiutano di adottare una legislazione di questo genere e sostengono che se la negazione di un genocidio, di un qualunque crimine di guerra o crimine contro l'umanità assume i caratteri di razzismo o di incitamento all'odio, allora ricade sotto la normale legislazione che punisce qualunque atto razzista o di incitamento all'odio. Però c'è un aspetto che riguarda il caso Perinçek che attiene sostanzialmente alla salvaguardia di due diritti. Da un lato il diritto alla libertà di espressione, che sicuramente non si può assolutamente mettere in discussione. Dall'altro l'esigenza però di, come dire, reprimere in qualche modo il negazionismo quando il negazionismo riguarda crimini di genocidio. Come si fanno a contemperare queste due esigenze? Beh, intanto la libertà di espressione non è assoluta in nessuno Stato democratico. Per esempio, appunto, non è possibile incitare all'odio o alla discriminazione razziale. E questo mi sembra già molto importante. Quanto al negazionismo in quanto tale, beh, molti sostengono, e fra questi per esempio gli storici italiani che hanno preso posizione rispetto a questa legge, che non è mettendo in prigione o punendo con una pena pecuniaria i negazionisti che si combatte il fenomeno. Anzi, al limite, come sostengono molti, facendo uso del diritto penale si creano a buon mercato dei martiri del libero pensiero, e quindi si dà ancora più spazio, ancora più eco a queste forme di negazionismo. L'unico sistema per combattere contro i vari negazionismi che riguardino sia lo sterminio degli ebrei che il caso degli armeni, ma ce ne sono poi anche altri, oltretutto non bisogna mai dimenticare i crimini di guerra che rimangono sempre un po' sullo sfondo in questi casi, l'unico è appunto l'informazione, l'insegnamento scolastico, la diffusione di attraverso i media e così via di informazioni storicamente corrette su questi eventi. Quindi non repressione, ma informazione. La repressione è controproducente. La scorsa volta noi ci siamo lasciati con un punto interrogativo che riguardava l'opportunità di cui si discute nel nostro paese, ma anche in Europa, di introdurre in qualche modo una forma di reato. Quindi che chi nega il genocidio possa essere perseguito penalmente. A che punto è questo dibattito? Se non ricordo male, c'è una decisione quadro dell'Unione Europea in tal senso. Sì, questa decisione quadro cerca di omogeneizzare il diritto penale dei vari stati proprio in materia di negazionismo, e come ho detto prima ci sono alcuni stati che non hanno una legislazione specifica e non intendono adottarla, quindi qui vedremo poi come si delineerà il conflitto fra questi stati come la Gran Bretagna e la Commissione Europea. Per quanto riguarda l'Italia, ha reagito appunto a questa decisione quadro che invita, ma è un invito molto pressante, tutti gli stati europei a uniformarsi in questi termini. La questione è ancora dibattuta al Senato e ci sono varie posizioni. A mio avviso, se si vuole seguire questa pressante indicazione della Commissione europea, si potrebbe però comunque cercare di limitare gli effetti negativi di una legislazione che genericamente colpisca qualunque affermazione che possa ricadere come negazionismo, precisando, e questo peraltro è possibile anche interpretando in un certo modo la decisione quadro europea, precisando che questi comportamenti verranno puniti soltanto nel caso in cui effettivamente o probabilmente incitino all'odio e alla discriminazione razziale. Però vorrei sottolineare un aspetto che è legato alla problematicità della definizione di genocidio data dall'ONU. Esatto, perché questo è il punto fondamentale. Perché quella decisione fu fra l'altro il frutto di una serie di compromessi politici. L'Unione Sovietica, per esempio, si rifiutò di far includere fra le categorie oggetto di genocidio i gruppi sociali e i gruppi politici, per evitare poi appunto che per esempio il problema dei kulaki potesse essere sollevato contro di lei. Quindi in realtà la definizione di genocidio, che poi insiste così tanto sulla specificità dell'intento di distruggere, diventa a volte troppo stretta, a volte inapplicabile e così via. Forse sarebbe più interessante passare ad un altro concetto giuridico, quello di sterminio, definito nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che quindi attualmente è in vigore e continuerà ad esserlo, dove appunto lo sterminio ha delle caratteristiche più elastiche, e quindi in questo caso, se magari qualcuno può dubitare che effettivamente si sia trattato di genocidio nel caso degli armeni, cioè di pianificazione da parte del governo ottomano, certamente in base alla definizione della Corte Penale Internazionale nessuno potrebbe negare che si è trattato di sterminio, e dal punto di vista giuridico non cambierebbe nulla, perché sia lo sterminio che il genocidio, in quanto crimini internazionali, non sono soggetti a prescrizione. Però la Turchia non riconosce né l'uno né l'altro, mi sembra di capire. Quindi il problema si pone comunque. Bisognerebbe vedere come si comporterebbe la Turchia, perché l'intento nella definizione di sterminio non coinvolge direttamente uno Stato, bensì comunque coloro che sono stati attori sul campo di queste forme di distruzione di massa di una popolazione. È una cosa recentissima questa idea di sussumere il concetto di genocidio all'interno del più vasto concetto di sterminio. Quindi mi sembra ancora troppo presto per capire come e se questa idea potrà farsi strada. Bene, grazie professor Caiani. Allora ci aggiorniamo alla prossima volta, quando scopriremo in che direzione sta andando il caso Perinçek. Buonasera. Molte grazie, buonasera.